Che il Signore ti illumini e ti faccia fare una buona confessione. Ma io ti conosco. Tu sei Herman, è vero? No, non sono più Herman. Non sono più il sagrestano. Stanotte l'angelo dei mali si è accampato dentro di me e io l'ho accettato. Ho voglia di fare il male, di uccidere.